cielo sono le stesse nubi di una volta, i fiori che sono nei prati da quando esiste il mondo sono nati, e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono profondi, grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita, che vuol sapere cos'è questo mondo. E dall'amore che nasce l'uovo, dalla terra matura il grano, non c'è altro che le mie mani, il nostro tempo che è nato ieri è già lontano sull'orizzonte e non tornerà, e non tornerà. La pioggia che bagna il tuo viso bagna da secoli la nostra terra, il sole che nel tuo sorriso splendeva già quando nasceva il mondo, e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono gli stessi grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita, che vuol sapere cos'è questo mondo.